E io 4,40 ce l'ho a zero, lo devo tenere a zero, quindi è così fa. No, è poco tempo ruggiato, chi vuole così. Se il lato è troppo. Aspetta che provo il timer qua, non l'ho mai provato, aspetta, speriamo non fa danno, eh sì. Guarda, questo qua è il timer, com'è? Vieni avanti. Guarda a vedere il timer, com'è? Buono. Posso alzare l'amplificazione, o no, va bene. Per me va bene così. Ok. Questo qua è il timer, quella là più grossa era come radio. Ma, sì, un po' più grossetta era. Questi li hai tu quei transistor? Sì, già li ho visti già. Aspetta, metto il palmarino. Ecco, tutti diversi, 473 sì, però 2S. Già li ho visti. Proviamo a vedere. Ecco, sì. Vabbè. Adesso me le mandate tramite messaggio. Sì. Già li ho visti. Non so che ti dica. Allora, vediamo un po' credo come ti so. Quando mai? Non andrà bene. E se no, diciamo. Sì, già ve l'avremo un luogo da adattarli, se non andare bene. Sì, che si trova. Io ho visto, adesso non mi ricordo in quale sito era, c'erano anche gli originali. Il fatto che pure ci sono pochi di nano, non è che andiamo per l'ambazzini, Lo so, però, va bene, dai, non ho più che fare. No, vediamo un po', tanto sono due, e... Se scoppiano tutti e due le ordino io da un altro posto. No, ma te l'ho detto poco fa, no, per quello non è un problema. Te l'ho detto poco fa che già li trovo. E che costano quasi tre voci. Chissà è vero. Sì, però non mi interessa, intanto non li prendo pure io, fra. Mi riprendo pure io, no, non è che mi importa più di tanto. Va bene. Beh. Quindi siamo così. Allora ci ha chiamato. Dai, ti so la rete, ci vediamo domani direttamente e va bene, fa quanti vuoi. Me l'ha detto che scende domani. Vabbè. No, il mio titolare doveva andare stasera, ma detto ci vediamo domani direttamente, non stare a salire. Ah, capito. Avevo capito di un'altra cosa. No, il mio titolare. Vabbè, allora c'è stasera, sei qua. Sì, stasera va, mi piglio e mi porto qualche cosa in garage, che se no è stata tanto la sera abusato, in occhio, non fa nulla e basta. Va, mi andando in garage e mi porto qualche cosa, però. Capo, se hai da fare, meglio mattina. Sì, devo fare alcune, devo sistemarmi alcune cose. Che immagino pigliato, ma c'è poi un disastro e devo sistemarmi. Cercando pezzi, cercando roba, va giù tutto incasinato. Capo. Va, torno di su, che sempre a che può pagarla nel bus. Ma non lo sento io, non intendo. Io sì, io lo sento. Vabbè, non è nulla. Grazie a Rogantà. No, vabbè, io tutto quanto lo squelce chiuso. Quando dai, siamo io e tu, chiudo tutto quanto lo squelce, tanto. No, che la giudiconi sì, squelce. Capo, no, anche io ce l'ho tutto chiuso. Anche io. Intanto, non me lo futti. Se tra gianni già lo apre. Ha voglia. Va bene. Quindi, è così. Ma tanto pare a rivendere tempo maro, fra. Vento. Mia moglie poco fa mi stava dicendo che il comune ha messo un'allerta. A voglia, a voglia, Porto Torre, Sorso, Alghero, Castelsardo, allerta meteo, sì, allerta per vento. 77 e 80 km orari di ponente. È un bel. Ecco, vabbè, vediamo. Vediamo com'è. Se no adesso siamo andati sempre bene. Porca miseria, beh, io dico sempre che c'è cosa. Siamo fissati con le verticali, Bainocchi, ma col dipolo ci avremmo tolto, guarda, un pensiero grande, grande, grande. Un paro, 2,50 m di capo, una viraccione e guai. Alla grande, alla grande. E purtroppo siamo fissati con le verticali. E va bene. E io dopo prendo la stacco e vado col, diciamo, la cornuta. E con Lincoln, quindi no, non me ne ponga sé problemi. Ma io ci avevo avuto Lulu come te dai duni, le verticali ne avevo lampate in terra, la manta poi ne aveva cotta in terra, ne aveva cotta, se non me l'aveva venduta a chi andare a vedere i poli, con i poli con Giulio, perché se, vedo molta gente, sento molta gente che tutti in dipolo e esce una bomba. E allora, ma io ce l'ho il dipolo, eh. Io ce l'ho, io ho la V invertita come il dipolo, però è a V normale. Non, le braccia non vanno verso il basso, ma vanno verso l'alto, in alluminio, già l'hai vista. Però qua uso locale cubi basso, capito? Perché sono tutti in verticale e cubi basso, capito Fra? Quindi sono costretto a tenere la verticale, a chi? Perché quando faccio DX il dipolo è assurdo. Quella cornuta è assurda ed è bella, però uso locale e non fa bene. Makeup, sì sì sì sì, sì. E vabbè, poi è importante che non me ne arrampia, poi non me ne arrampa meno, non me ne arrampa mai, a meno che non si drocca, a chi parla un po' meno a me si deve droncare, perché con le... quei tiranti che c'ha manco si ghinni. Fra Usoco, però guarda, con i dipoli, con le antenne a fecole, con le filari si va, se è accordata bene, fatta come ti ho comandato, ti avresti tolto un pensiero. Allora io sono del parere, se diciamo, se invece di abitare in campagna sarei stato in palazzo, io non avrei mai messo una verticale, assolutamente, assolutamente. Io avrei messo una V invertita come ce l'ho io, una V normale o un dipolo. Poi chi mi sente, poi avrei messo amplificatori, tutto qui su di voi, però i verticali, direttive, ma la sapigli, assolutamente, assolutamente. Antenne filari, leggere, leggere, senza dare all'occhio. Un balun, basta, finito. E fai 27 e fai, poi fai anche il radioascolto. E quindi ciccio, ma più dentro chissà. Ma il problema è sempre chi tu è. Secondo in sé, secondo quel palazzo sì, non puoi punire nulla, non ti fai ti vedono pure qualche cosa di rompere le scatole. Invece, quando si a conto d'uio, come ti sei tu, ma so che io, nessuno mi ha dei diminuti. No, d'accordo, d'accordo Fra, però anche in palazzo, casi una pizza, si accorgono della calata, ecco, quello mi puoi dire di sì. Però se metto un dipolo in palazzo vai a tenere a poco da di. Vabbè, se mi fosse, se sarei stato in palazzo mi avevo fatto un'antenna con quel filo per, con quella filo per il filo continuo per la saldatrice. Prova beh Davide, si lo vedi, e poco funziona in acciaio, quell'acciaio, quell'acciaio coso, quanti si dice, animato fine fine, tanto quello lì tiene anche 100-150 watt, una volta che esci con 70-80 watt è cazzata di nulla. Quello lì l'avrei messo, un balo e basta. Capo, sì sì sì sì, io già ho capito già, è un avaraggio, due o tre rodoli, un avaraggio, i miei biglietti, si mette a mangiare la saldatrice col filo animato. Quella è bella, quella è bella, quella lì è l'unica che mi manca della Parkside. Poi la tua non so se della Parkside, però io a me quella lì mi manca. E va bene. E quello è un ultimo filo per fare antenne. Quello, prendi quello acciaioso, sei di lusso. Abitando in palazzo, guarda, mi avrei fatto, avrei combinato un guaio. Con qui su viro fai di tutto. sì, quello già lo so. Sì, è della parte, sì, della quella che ho io. L'ho presa lì a Lidl. Yes. E già sono buone. Almeno per l'uso che ne facciamo noi, a noi non conviene farne, cioè comprare attrezzatura buona, di qualità, per, diciamo, se ne fai uso amatoriale, uso, cioè che non fa uso intensivo la macchina, conviene comprare quelle da prezzo e sia la grande. Nei momenti che dovevi dire no, ma io c'ho il Mercedes, c'ho quello, c'ho l'Audi, c'ho quello, 3.000, e in Saligna, ne aveva 6 o 3.000, andà a travagliare a Sassari. No, io ce li ho tutti e due comunque, ne ho una filo continuo e una elettrica, ne ho. Secondo me uso quella elettrica, se no in certi punti quella l'altra là. Io ce l'ho elettrodo e mi va bene perché quella che io elettrodo è buona, io quella elettrodo già la uso tanto e salda anche gli acidi a 3,25, quindi non mi pongo problemi, basta pigliare, regolare bene la corrente, provarla prima. Quella a filo continuo già me la vuole, già della Parkside già me la volevo, già mi piacerebbe, già mi, però a ravvini, allora sai cos'è, fra, se mi rabbiglio è amplicialla, quindi meglio che non me ne piglio. Noi ce l'abbiamo in capannone, il mio titolare ne ha una anche impulsiva, anche col gas, è bella, che saldiamo l'alluminio quando è, però io personalmente non me ne posso nutare, che dato se me la vedi anche tu non me la presti, no, non viene, non ha giù, basta. Ma che non ne nessuno, che l'hai? Una volta che l'hai dentro il magazzino, guarda te ne fotti. Lo so, però per niente, c'ha fame. Caspita che bella, ma la presti? E io a dire di no, mi so che buono, quindi. Forse prima non piglia mini. O se no devo prendere, comprarmela, mettermela dentro la scatola, ogni volta che mi serve toglierla e no. Ma poi non la uso, io per i lavori che faccio sono lavori abbastanza col ferro schedulato, quindi non mi serve. No. La da su un 10. Più che altro ho preso il taglio quello a plasma, ho preso il taglio plasma ed è assurdo, quello è bello. Io me l'ho già comparato a chi si provi i safari e pare che si tagliando la cosa, taglierina. Lo so, la conosco, ma non me ne ho preso, una cosa che non mi interessa. A me no, più o meno. La giubilata di una saldatrice non è che mi interessava più di tanto, però la giubilata che era un'occasione nuova a me, e a qualche sede. E viaggio in mio cognato, viaggio, vista, femma e ivi, però a chi lo faccio lungo, appunto in mira io. Sì. No, io me lo... Dai, non me l'ho presa, quella lì ce l'ho buona, quella elettrodo ce l'ho buona, diciamo della Telwin, a inverter ed è buona, quella lì già è, ti ripeto, va, scalda anche, dai, diciamo, brucia anche gli acidi, i 3,25 acidi, quindi è già una cosa che vale. Ho anche il tornio io, ma avevo comprato anche il tornio della Parkside. Avevo preso il tornio e il tornio non l'ho mai usato, mai usato. E ce l'ho dentro la scatola, e mi l'hanno visto, mi l'ha visto come parente, mi ha detto, ma l'ho preso, devo fare dei lavori in legno, no, non l'ha giudicata tu, lo tocca a te. E ma mi dice, si è offeso, ah, cosa, ma buone visite. No, non gliel'ho dato, non gliel'ho dato perché era ancora nuovo, a nuovo, non l'ho mai usato, fra, nuovo, nuovo, non gliel'ho mai dato, non gliel'ho mai dato. Pensa se fosse davvero continuo. Ah, se a uno gli serve una cosa, basta andare a comprare sì, te ne ha comprata due, non ci ho comprato già di tutti. Lo so, cosa, però non tutti quanti la pensano così. Non tutti quanti la pensano così. E noi non c'è niente di piace va i travagli, beh, fare i travagli beh, però con la attrezzatura del latte, mi hanno infasciato una motosega, una nuva, beh, da sono andato e me la è tornata a comprare. E da poco, beh, la motosega, no, la motosega me la ho comprata nuova e non ve ne fa nessuno. Però capita, non c'è bisogno di rispondere in questa maniera che le cose non si vanno a Puglia, sussidini. Vabbè, sussidini però vai e me la compareggi, uguale, me la compri. Può sussidire, però me la compareggi. Se ti si infascia me la compareggi, no? Ho visto che tra le fasce da poi te la regalo in burro, si cagliano in muta. Infatti non c'è più nulla per nessuno. Manco una giavi dopo più. E questi è vero, manco una giave, a che da poco mi hanno domandato una 22, no, non ne ho, no, non ne ho. No, già te l'avevo vista, ma non ne ho, mannaggia. E vabbè, vado, allora me la compro e sarà meglio. Ora manco quando la zecca la ciappi. Esatto, te la si chiami bene. Capito, ogni volta è così, ogni volta è una 22, una 19, una 15, una 14, le chiavi a coso, le chiavi a guido, lo sagliatori, porca miseria. Allora sono qui un macco, qui piglia con pareggio e l'altro, bene, e via, suonani, tra, non è che c'hai, sì, tieni, però basta, guarda, mi sono rotto le scatole dal giorno della motosega io, fra. Perché ha detto porca miseria, ma quando mai ho mangiato di comprare la cosa e date me ne faccia, ne buon finito, non ho più dato niente a nessuno, basta. Non me li domanda né il risaltatore, il stagno, che cose così, e allora ti pongo in mano lo saltatore che faccio io, ti pongo in mano, se mi bruci chi su vai. E allora, ma a parte il fatto che non si chiedono quelle cose. Francolì, scusami, adesso mi prendo un caffè e assaggio quella roba che mi hai gentilmente regalato tu. La sai che non è che assaggiata io, anzi scusami se è buono, perché no, me l'hanno regalata quella, no? Me l'hanno regalato 2 litri e non so neanche se è buono. Adesso mi prendo il caffè e mi prendo anche la mazza caffè, visto che sono a casa, l'assaggio fra. Avanti, buonasera per il controllo, copiato, qua periferia di Sorso, da vino al mic. Buonasera, avanti. Sì, buonasera, S7 radio 4, eh? S7 radio 4, un po' devoluta la radio. In compagnia di Franco, il mio compaesano, però lui è proprio nel cuore del paese. Vai Franco. Io non lo ascolto, in mezzo al QRM e non riesco a capire neanche cosa se sta parlando più o meno. Avanti l'amico a vedere se riesco a tirarti fuori. Oh, Gabi, fai vedere. Sì. Sì, io ti copio S7, S7 Radio 4, ma che antenna sto utilizzando? E gentilmente anche la radio, se ce lo puoi dire. Perfetto, tu come mi copi? Mi ascolti bene di radio? Perfetto. Dai, quando ti serve qualcosa siamo qua. Binario 12, frequenza modulata, ci trovi oggi occasionalmente, però magari ci trovi la sera dopo le 6. Dopo le 18 fino magari a volte anche alle 11, 11 e un quarto, 11 e mezzo. Questo qua però per il fine settimana. Quando ti serve qualche controllo. Siamo qua, ciao, vabbè io sono Gavino, poi se ti va ci dirai il tuo nome, comunque in compagnia anche di Franco. Vai di nuovo per te, però Franco non ti cuppia, Franco non ti cuppia. Vai di nuovo. Perfetto Gio, perfetto Gio, grazie, grazie a te e buon proseguimento e buona installazione, dai, buona installazione, e fatti, dai, fatti sentire quando, quando aggiornerai tutto il sistema di trasmissione. Ciao, buona serata e buon proseguimento, ciao ciao, vai Franco. Ecco, no, io non lo ascolto, comunque lo saluto lo stesso, non so che nominativo ha, e niente. Ciao, ci sentiamo, e fate sentire più forte, almeno ti ascolto. E niente, no, non lo tiravo fuori per niente io. Capì? Sì, aspetta, parlando. Sì, sì Gio, dai, perfetto, perfetto. Sì, anche tu, quindi sei qua a sorso. Va bene, va bene. Ti ringrazio per il contatto. Dai, fatti sentire. Quando vuoi, siamo, ti ripeto, siamo qua, però oggi occasionalmente, poi la sera dalle 18, dalle 18:30 fino alle 23 a volte, magari specialmente nei fine settimana, riuscirà a contattare qualcuno. Di nuovo buona serata, buon tutto e buona installazione. Qua Gavino ti saluta, ciao, buon proseguimento. Fra, era Gio dalla diciamo dintorni di Sorso, stava montando l'apparecchiatura, dai, stava provando l'apparecchiatura perché la voleva montare ed era in condizioni precarie. Ah, è cappa, dai. È strano, non lo so, l'avrei dovuto almeno basso dovrei ascoltare, però boh, va bene, dai, lo ascolteremo quando si piazzerà tutto, il tutto, lo ascolteremo. E niente, ma lui mi ascolta a me? Non lo so, Gio, lo ascolti tu, Franco? Deve aver spento, dai, Fra. Sì, comunque, dai, ha detto che ascoltava tutti poco fa. Vabbè, io sto uscendo un 20 watt, sto uscendo un minuto di più. Vabbè, andiamo a farci il caffè. Positivo, anch'io mi faccio il caffè, assaggio quella roba che mi ha gentilmente donato. Gentilmente donato, che a me che si cose non mi piace, mi fra. Vabbè, dai, riprendo subito. Accento brucia. Allora. Bella Efra. Capita, buona ridda. Quanto brucia, l'ho assaggiata anch'io. Ma è buona però. Sì. Già si va di... Se va di... Beh. Questa l'hanno regalata a mio cognato. E mio cognato me l'ha portata a me, per lui non è beve, no? Dici te. È buona Efra. Caspita. Qua io... Io le bevo, io non bevo altro. Io non bevo altro, non bevo whisky, non bevo... Però l'acqua vite già mi piace. Ed è veramente buona. Non è affumata, non è... Ed è pure da voci. Sì. No, io di solito non bevo l'acqua vita, bevo la barricata. Anche quella già è buona, però rimane un po' più dolciastra. Questa, l'acqua vita è un po' più d'arrasto, capito? Un po' più secca, ma è buona. Sì. Cioè è buona. Io ce l'ho, come me l'ho fatta, l'ho messa in frigo, eh. Era sempre in frigo. Quindi la sto bevendo fresca. Ed è... perché temperatura ambiente non mi piace, cioè è troppo pesante, la metto in frigo e è più gradevole, però è buona, capita. Non gli cambia sapore il frigo? Appena il frigo la alleggerisce un po' fra, non in freezer, mi in frigo, in frigo a tenerla fresca per essere gradevole, no? Cioè noi in maggio di imbriagà mi piace bermela un bicchiere, mi piace bermela dai fresca, ma è veramente buona, è veramente buona, non ti lascia neanche, non ha fumatura, non ha nulla, è fatta bene, è fatta con criterio, è fatta bene. Capo, meglio così, infatti avevo paura che non fosse buona. Infatti l'ha già assaggiata, a Pulsa Barista l'ha già assaggiata, voglio dire, via andare. No, no, no, no, è bella, bella, bella, bella, eh. Ma di chissà, chissà di buoni ciambecchi, di buoni angulitti. Basta avere un criterio, non pone nulla, chi, stasera, finito. A parte da un'altra chissà grande. No, ma anche io mi l'ho bevuta adesso, la matta a caffè. E basta, va, se me ne bevo un altro bicchierino, ma è sabato. A me già mi piace, quando sono a casa, già mi piace bermi un bicchierino di vino, un bicchiere d'acqua vita, già non vedo il male, non vedo il male, già mi piace. A voi se governo in campagna, tieni via una tazzita, poi di un quarto d'ora e svanita. No, ma questa è bella, è bella, bella, bella, non è perché me l'hai data tu, bravo, altrimenti io lo dico, però è fatta bene, è fatta bene, bene, bene, questa si vede proprio roba fatta, papisira di buca l'ha fatta e l'ha regalata, e l'ha regalata, perché dice, tu assaggia chita che è buona. Ecco. Andrà bene, beh. Buona che hanno tre cose in bocca, da voi se un poco ti salluma. Ma fatti bemmi, guarda che fa meglio, fa più bene un bicchiere di coso, di acqua vitte, che berti un bicchiere di limoncino, anche tu il limoncino, tu tanto lo zucchero che va, tu tanto lo coso che va, e mia moglie lo fa e li mette molto zucchero, infatti dico mettili meno zucchero, ma poi non ha il sapore, sì, ma poi non rimanco zucchero, ma cosa c'hai in chi vi ha appinato di zucchero, fallo, li metti meno alcol e li metti anche meno zucchero, quindi bevi un limoncino leggero, io non ne bevo, lo fai e assaggialo, non ne bevo, non ne voglio, fa il limoncino, la crema di limone, ma non ne bevo, perché intanto mi fa male, mi fa male, quindi non ne bevo. Però l'acqua vite lo gradisco, Io l'acqua vite, guarda, io limoncino, mirto, queste cose così, Montenegro, di buoni bigliacchi c'ha massa, buoni fascia rimpulli con la massa, a me non me ne ha fatti nulla. Però l'acqua vite è buona, io la gradisco, e un bicchierino alla settimana, uno, due bicchierini alla settimana già me li bevo, sono buoni. Capo, sì, quello sì. No, io il limoncello lo faccio io lo stesso, come adesso sono 2 anni che non faccio neanche mirto, anche il mirto faccio, però sì, lo assaggio qualche volta, ma non ne bevo molto, però lo faccio per quando viene qualcuno, così, e boom, bastami. Io, fra, non ne bevo, di quella roba non ne bevo, ma mai... Da ragazzino, da ragazzo magari è buono limoncino, ma da voi no, no, no, no, no, no, assolutamente. Io, ma neanche birra, no. Io mi bevo un bicchiere di vino rosso mangiando, uno, due bicchieri. E quando è, mi prendo la mazza caffè. Ma il vino deve essere buono però, mi raccomando, non ne manco ne vinco. Per esempio io quando vado a mangiarmi la pizza fuori con la famiglia e vino dalla casa avete, no, è imbottigliato, non ne voglio, cosa bevi? Acqua. Se diciamo vino locale, vino fatto in casa, vino diciamo sano, allora anche mezzo litro già me lo bevo. Però si va nell'imbottigliato, avete, a me ne manca vizzino. Già è buono, ma te sei imbottigliato, capì? Già è buono. A parte il vermentino che rimane un po' più dolcino, però il rosso già è buono, già è buono. Io ne ho bevuto tanto di vino imbottigliato, è buono. se tu sia da voi compare Monterrey a Catania dello Spiga, allora è un altro conto. Però quando è vino buono, tranquillo. Vino buono, fra, imbottigliato, io l'unico che ho bevuto imbottigliato che si può bere è buio. Quello buio, quello lì è l'unico. L'unico, perché poi anch'io ne ho assaggiato tanti, Però l'unico che è corretto, l'unico corretto è quello buio, che è buono, buono, buono, buono. Poi tu sai, io sono più fedele a Nepente di Oliena, a me piace Nepente di Oliena, il vino grosso e il vino di Isola. Poi gli altri, non è male, non è male per essere un vino commerciale, anche questo qua che c'ha la cantina di Sorso, non è male, non è male, non è grosso, non è un vino grosso come può piacere a me, però è un vino gradevole, un defaticante che può andare. E poi di bianco se lo saprendo, Aragosta frizzante. L'aragosta frizzante, quello lì, un bicchiere per aperitivo lo posso anche bere. L'aragosta frizzante. Non so, sicuramente lo conosci, l'hai comprato, lo compri, l'hai bevuto. E quello lì è gradevole, perché io lo prendo quando c'è qualcheduno che piglio, ero con pareggio ed è buono. Ma l'altri proprio zero, l'Eurospin da Sapiglia, l'Eurospin, voi pigliate e passate dalla pala meccanica con di Peruvino. No, io la ragosta l'ho bevuto, buonissimo, sì, tutto tranquillo, ma quello frizzante proprio l'ho scartato. L'ho assaggiato ma l'ho scartato, perché non mi piace, è meglio quello normale. Non ti piace il frizzantino? No. In un vino non mi piace. C'è anche quello classico, quello secco, che è buono. E quindi anda bene. Esetto un attimino chi ci dice di giocare in di luci. Oh, a far rendisi fa una ballina ai danni. È tipico del cane, dei cani, dai. Magari hai un grande. Non sei una farrende. No, sei una farrende, va bene un pelo dritto tutti e due. Porca miseria, non si affarra nei paro magna, si affarra nei paro yoku in cittadina. Va bene. Se tu fanno per il gioco, capito? Se tu gli dai un pupazzo, se gli dai un pupazzo, ma i giochi vecchi, i pupazzi vecchi della bambina, pigliani e tum, la guanta, uno la ripete, uno lo gappo e ci alzano i direnti. Tum, tum, tum, tum, tum, ma dopo Romano perde la pazienza e è in chiuso se dirà guerra. sono tutte le gare così. Vabbè. Abbiamo due osso a caridare, due femminucce, ma quando si buone ne so. Di terroristi gruppi. Allora, quest'estate mia moglie aveva un vestito lungo, no? E esci da fuori che ci vesti di lungo. La piglia lo funese, lo viaga e gli fa lasciami che me lo rompi. Agguanta il tuo vestito in bocca, piglia il tuo vestito in bocca, comincia a tirare, tra, e si tende, tra, agito, vieni ti da sei mutanti. A un certo punto mi sono coperto in mezzo, che sennò la filo la sua è mutante. Ha detto, ma porca miseria, giugendi, dubbia, perché poi quando gioca, io lo conosco, no? Pigliava e sta zia, tutto, si la pedava, scodinzolava. Oh, a giugà. Chi da boh, dice, mica ti inizia a stare vicino. E lui quando vede roba curiosa, piglia e tira. Tira e a voi è un cane macco. Manno, ma gioca e sazzini così, ma sazzini ori e ori mi. A voi c'è un viso pupazzo, piglia, il sazzini pupazzo in bocca, tirendisi, tu provendisi la forza, no? Loro si provano la forza, uno con l'altro. E a voi la vini quando si rompe il cazzo, che cuti quattro tracagnati e lo vado a pizzi. Giocano, come fa? Anche loro giocano, e hanno acciappato qualche cosa, magari in un bicchiere di longo si credeva che era qualche cosa da tirare, da giugare, e ha tirato. E tu pensa che di lungo qua c'è, c'erano anche le tende, no? Ma non mi ha assolutamente mai fatto un danno, non sia quando sono dentro, non si avvicinano al divano, non fa da chi dà, quando ho fatto i panni. La ragione è poi diversa, eh? Però non hanno mai fatto un filo di danno. Sta pagando lui. la di per avvicinarsi dritti, la di ha detto che capita, mi sono occupato in mezzo, che sennò un guai, è arresata, e con i pupazzi così, e ci sta, vuol dire che c'era qualcosa lì. Anche magari, non lo so, qualche colore, boh, non lo so. Però i pupazzi tu li vedi in mezzo campagna, ti rendi, c'è gli ughendi, ma ori. Ma poi quando si rompono il catto, li vieni tutti straccagnati, tutti quanti li più in mezzo campagna, e in chi vi vanita. Ma ci sta. Tutto, ci sta tutto. Va bene. Vai di nuovo, Fra. Certo, ci sta tutto. Sono animali, sono. Io quello che non sopporto dentro casa sono a parte i cani, che il cane deve rimanere fuori, anche io sono fatto così, e che non sopporto sono i gatti. Il gatto si appicca ad ogni rogo, ha i denti, ha le cose, te ne frazza tutto. Io ne ho due, sono madre e figlio. Sono tutti e due sterilizzati e sono tutti e due puliti. Escono fuori solo a fare i bisogni, perché sono abituati così. Entrare in camera, cioè loro devono stare solo esclusivamente in cucina, basta, finito. No, perché non si, qua non, proprio, c'è gente che li fa entrare in camera da letto, no, penso proprio no. Purtroppo, fra, lo sai cos'è? Che devi, per esempio, io il cane li faccio socializzare con mia figlia, anche i gatti, quindi voglio che lei cresca in mezzo anche alla conoscenza degli animali. Ci sono certi bambini che gli animali li maltrattano e a me questa cosa non mi va. Quindi lì la notte gioca con i cani, con i gatti, ma tu lo sai che questi due cani, tu li hai visti che sono grandi, e ti si pigliano e si pone la panza a terra, e la iatta posata in coda mi figliura, e i cani gli ughendi come figliura, cioè, ma te li immagini questa cosa? Se mi prendo il gatto io in grembo, succede un disastro, però il gatto va da mia figlia, i cani a pancia a terra giocando, mia figlia con i pupazzetti, con le cose, sempre io vicino, quando non ci sono io queste cose non si fanno. Però giocano, ma ti immagini? Poi i cani, ricordati una cosa, che i cani quando vedono bambini, specialmente tipo i cani che c'hai tu, che sono abituati in famiglia, cose così, difendono i bambini, sono protettori. Sì. Domenica. Dai, domenica poi già te lo dico via bassa, dai, cosa ha combinato il Fornese. È vero. No, il pastore tedesco no, non lo fa questa roba, eh. Lui più che altro è. Non è a Capuzù, è strano, fa guardia, sì, è protettivo, però il Fornese per mia figlia stravede. Lui esce fuori, lui rimane davanti. E è da Chazio che Nedo rimane posato. Quindi è molto, molto protettivo. fra i cani bisogna anche educarli, anche educarli e farli capire qual è il loro limite, anche se dicono ma sono animali, sono animali, però bisogna pure farli comprendere. Gaccomanda, è molto importante. Allora, se io per esempio lascio un bambino insieme a loro, cioè se io ho un cane piccolo, accoppio un bambino, non sa mai come il cane si possa comportare, però se insieme al bambino e al cane c'è anche il capobranco che sarei io, cioè Rugani sa chi si invaglia ha finito, allora in chi Rugani si abitua e dice porca miseria, no, che la cosa si pone male, perché capiscono anche da come ti imponi a loro. E i bambini devono essere anche educati, non solo i cani, devono essere anche educati i bambini, che i cani non sono pupazzi. Quindi questo qua è quello che penso. Quando si sentono cose di tragedie, queste cose qua, le tragedie succedono perché tu a tuo figlio non gli hai insegnato che il cane non è un pupazzo, non è fatto di peluche, è fatto di carri o seguente si è fatto tu. Quindi non comparà un pitbull, non comparà un cane così a un piccinetto. Si sa chi ha da voi deve avere un piccinito, perché sono cani che hanno un diverso, apprendono diversamente l'educazione da un classico, da un cane normale. Tu prendi un cagnolino adesso appena nato e lo metti a giocare con tua figlia, per dire, no? O tuo figlio, chi è, con un bambino che cresce con lui, questo cane con lei o con lui, tu devi vedere cosa esce alla fine, cosa ne esce alla fine. Alla fine ne esce che tu a bistina o a bistina non ti puoi manca avvicinare. Se te lo sto dicendo, mia figlia ha 5 anni e il fornese ne ha 6, quindi è arrivato prima lui della bambina, sono cresciuti assieme, ma sono cresciuto ad avere un pari, mi fra. Perché poi come lei ha imparato a usare, a capire, gli dava da mangiare lei, gli dava il pezzo della roba, il pezzo del formaggio lei, quindi lui ha il massimo rispetto dalla bambina. Allora, domenica è venuto, adesso te lo dico, domenica è venuto Roberto Farina, Roberto, il radioamatore, a trovarmi, stava passando ed è venuto ed è entrato. Eravamo in garage parlando e così, e a un certo punto è uscita mia moglie con la bambina e Roberto era con me, ha preso la bambina, è venuta a salutarmi, ha preso il cane, si è messo davanti a Roberto, ha pigliato come da dire, non fa movimento, a chi si noi, no, che vini mari, infatti è arrivata mia figlia, ha detto babbo stiamo uscendo, ha detto va bene, e tu busata davanti a Roberto senza farli muovere, fatelo dire a Roberto. Vedi, stava proteggendo. Sono così i cani. Infatti lui ha detto, cioè porca miseria, questo cane fa paura, questo cane è assurdo. Si è messo davanti come tanti non ti muovi a chi è un disastro. Succede nei guai. Purtroppo è così, fra. A me il cane cattivo che morsica, che fa, no, proprio non mi interessa, che da voi è di sono tranquilli, a voi la vice quando vieni tu, fra, come sono, che sono accocchi, però al momento del bisogno ci sono, però manco abbagiani e fazzini e sono protettivi, e va bene così. Oggi questi animali li abbiamo inquadrati come nucleo familiare, prima rimanere lì da catena, bravo, sì. Una busta, sì. E poi le gare, pure quando sono preparato, cosa così, non sono manco che le gare. Gane te affettano come te rubadrono, la città del rubadrono, no? Però se fai cose brusche sono cavoli due da buio. Esatto. Dite, Rugani non sa di gira o padrono. No, Rugani non è che non sa di gira o padrono. Rugani si gira pure o padrono, si lo tratte mari da Rugani. Purtroppo è così. Noi gli ha chiesto, non è perché uno è il capobranco, non si gira, già si gira. Prova a farli male, se ti ricordo un po' salito. Franco lì, mi fumo una sigaretta un attimo, lo prendo subito. K, no, io invece, perché devo uscire dopo, devo andare con mia moglie a fare la spesa, ci sentiamo più tardi, dai. Sì, tranquillo, tranquillo. Me ne vado in garage allora a fare che cosa. Sentiamo dopo, Fra. Buona spesa. Stamattina a prezzo sono andato a Conad, se ti interessa, e ho preso un bel, c'era lo spezzatino bello, che era in offerta, lo spezzatino di maiale, e lo facciamo stanotte. Infatti ha mandato un messaggio a mia moglie, ha detto, mica ho preso lo spezzatino bello, Fra, bello. Ha mangiato da bocco. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao, capì. E a ciao, Fra. Buona continuazione. Ciao. Capino? Beh, allora c'è qualcuno. Andai. Babbo, sei uscito qui stamani e mi ha pigliato due sacchi di belle. Che ne, non venne un casino, ma niente, ce lo so. Io che da dire, ci ho pigliato in coso dei sacchi a Bricomet. Io li avevo presi alla Cidernet, ma sono cari, non ho compreso una cosa, chissi, non ho compreso. No, io ne ho pagato a 6,80 euro. Insomma, dai, si è andato bene. L'altra volta aveva pagato 6 euro e non so cosa, la Cidernet. Da poi è andato ed era che 8,20 euro. E ha detto, tanto pare me lo piglio in su quando mi serve. E infatti l'altro giorno non ce n'era, stamattina è sceso, ha detto vera la gente, gli davo io a stamane chi sta pittendo e arrivi un cambio di rubelle. E niente, è arrivato e ne hanno dato due sacchi a tutti, a chi non veniva. Ne aveva nessuno una bella. Non lo so come fini cosa sto combinando, che bella, però o non finne, o non ne so producente, o vivono in magna. Secondo me vivono solo magnani, anche con la scusa che tanto la gente lo compra perché c'è freddo e ci sono i bambini e ci sono gli anziani ed è una speculazione infinita. A chi è di Cussini, a chi Sinoni, cazzo, mi ricordo era 4,99 euro, io 5 euro, 5,50 euro, 5,60 euro, 5,90 euro, pizza va bisumivo è 9 euro. Ma alla fine uno biglia smonta tutto e lo bello è che se lo buca, è che come se fosse più caro della legna compreso. Che tu casa ne sei prendendo 15 kg, ne sei prendendo di questo bellet. Di questa maniera la legna che si brecia la biglia a quintare. Infatti, se no mi trattene il condizionatore, allora mi attesi, dai si caglia l'ambiente e funziona uguale. Sì, ma il condizionatore, se lo dai tutta la diastesa è un casino. Bene, anche noi per buio a sentire, poi trovarle e poi trovare a sentire. Non funziona così, che si raffredda subito la gas. Già lo so, Giaffra, ma da che è atteso, da buio, da già fare un timer, si chiude, si attende quando raggiunge la temperatura. Il problema è che a livello di terra, di pavimento, c'è un bel freddo. Purtroppo è così. Ma cosa vuoi fare? Vabbè, io non mi abito a chi in Oga è tutta una temperatura, è tutta una temperatura, una di là giù così, pensamenta che dura. Sì, che dura, fa figura, come te due carrozzieri ha detto, metti su, commetti, che finché fa figura, è dura, fa, finché dura, fa figura. Ciao va. Poverino. Lo so. Bacia Recco. Bacia un altro poco appena. No, vai, andare. Adesso va bene, poco fa era troppo casinista. Marco, se non si fare il gozo, fai bene diventare un gozo dell'autoscontro di Mariolino della Giostra. Non comprendo, io ti sento un bel male, tu cazzo di gugliato. Tu c'hai una radio che sente male. E allora rigosi, va, i canarini va dentro sta radio. No, va a pappa della ferriera. La resta in bandio va giù io con la canna becca. Allora sei convenente va. Andrà bene. Tru, per i russi andate ce ne so. Dei russi, e ne so i russi. In radar irani. Davvero? Cioè, non radar vai. A buttare la melone sono andati. Oh vanni, non radar va. Capita, io ho intercettato già tutto. E allora? Io. E andrà bene. E cosa devo fare? Secondo te? Non ne fa la mia io non ne fa, a meno che non si tronca in due. Tu è possibile? E se ne va e arriva a terra, Fanni. Fino a lungo ai pagliissi, no? E allora? Ma però erano... È già anni che si fa un'altra strada, sono durori. Non si farà mai la mia un'altra strada, mai si bufferà. Solo i ragotti di chi su da fianco si può fare. A chi da chi ne fare la gubbatturia mia è ciata in un punto. Quindi, prima di arrivare a carriera per la darrazza. Da voi la mia non ne fare, la mia guanta sino a 160-170 km orari l'antenna. Ehi, la razzini è così, è scritto. A voi. Ehi, la mia senza tiranti mi, perché non ha radiali che è fatta in fibra di vetro. Ehi, senza tiranti buro. Più bene farà, secondo il momento che è. Allora, è debole scrivere queste basi di Biasi. L'antenna è dei crimini, che mantiene la velocità del vento. È robusta, non si dronca, e invece si dronca e ne farà buro. No, ne che non ne fare, non si dronca. Ma le lettere e recensioni di quella antenna della Gaim System. Ehi, ma non vi scrivi niente, che te ne frega? No, visto non me ne fuci nuda. A chi quando vede che sto vento malo, Davide me l'ha mai data e mi ha detto tu, è tutta tranquilla, troppo tranquilla, ha detto vera. Ehi, vabbè. Vento, ancora vento vostro non ha fatto. Proprio anche pure in me, maggiori diranti, me ma faranno così no, peggiassi no. No, che non è scende, non si piega. Si può bucurare in tria, ma non ne farà, non si dronca. Cos'è Vanni? E se no rimbongo lui in saglio e non fuggi. Sì, vabbè. Certo, io mi gioco tranquillo come a te, non ho problemi. E se ne va, peggio paredda e non se ne bongo più sopra. Una minorita ne buoni. Nuda ne bongo, nuda, nuda. Comunque quella piccolina che ho a bastone andava in umattessimi, che sarebbe un 2 metri di baro, a santi imbatti d'ora. Vabbè, quella riesce bene lo stesso, anche se piccolo. Dovrebbe essere un quarto d'onda. Ma mi pare che non venga manco questo, di un quarto d'onda. No, mi sembra che c'era scritto così nel foglio, un quarto. Oh, boh, non lo so. Non lo so, non l'ho mai avuto, è un tipo di antenna che non l'ho mai avuto. Curi? Ah, un letto io. È un letto che va a pesare l'antenna. Minorita. È la dura. Proprio così, basta che funzioni. No, la pieghi, quella non si rompe, a meno che si dronca o se ne attrassano. E quella in fibra di vetro, la Game System. Poi si chiama Game Master, si chiama, no Game System. Game Master, chi sa va?